ribelle lagrima scende sovra le belle guance di Aurora. Dolce signora, che mai va ancora? Nulla. Darei la vita per asciugar quel pianto. Io qui mi strappo. Thank you.